spendere due parole sul recente passato non è cosa semplice. Dalle pagine di Radioazione e dalle dirette radiofoniche, dove da 3 anni a questa parte si pubblicano e si leggono testi su testi che rivendicano azioni in tutto il mondo, è difficile però lasciar passare sotto silenzio i recenti avvenimenti in Sud America. Da questo sito e da questa radio è stata sempre supportata l'azione diretta ed è sempre stato detto che le azioni non vanno giudicate dai compagni, perché è un lavoro da magistrati farlo. Il ritornello così tanto conosciuto a memoria, saranno stati i fasci o i servizi segreti, è sempre stato il pianto di coloro che hanno sempre voluto mostrare il volto istituzionale dell'anarchismo. Un modo per dire: non guardate da questa parte perché noi condanniamo quei gesti. Quindi è stato sempre un modo per non cadere mettendo le mani avanti, ma avendo sempre l'indice puntato verso altri compagni. Chi parla ha sempre odiato questo ritornello ed è sempre rimasto disgustato da quei compagni che tante volte lo hanno cantato. E lo hanno cantato in ogni occasione che secondo loro poteva nuocere di più contro il movimento anarchico. Lo hanno cantato anche quando le azioni sono state accompagnate da una firma e da un testo scritto da compagni anarchici. Ma fortunatamente il canto della dinamite, il fruscio del fuoco e la cadenza della polvere da sparo hanno provocato sempre più danni del canto delle candide voci anarchiche. Ho sempre gioito davanti all'azione fatta da tantissimi compagni anarchici in tutto il mondo, come ho gioito all'epoca del mio arresto quando qualche ripetitore andò a fuoco in solidarietà mia e di altri compagni. Ma è una gioia che dura sì e no 5 minuti. La gioia eterna la prova solo chi ha fatto l'azione e penso che questa torna e ritorna ogni volta che si pensa ai momenti dell'attacco. Come dicevo prima, però, è difficile spendere due parole sugli ultimi avvenimenti. Mi riferisco in particolare all'ultimo testo che arriva dal Messico delle ex ITS unite ad altri gruppi locali sotto la sigla Reacción Salvaje e gli ultimi attacchi avvenuti in Cile alla stazione della metropolitana con 14 feriti tra i passanti in uno dei due attacchi. Se qualcuno ora si aspetta da parte mia una critica a tutto ciò, rimarrà deluso. Io so bene cosa penso di quel testo, mi era già espresso in riguardo alle stesse ITS tempo fa su un altro loro scritto, con tanto di foto o selfie per intenderci, con le armi in pugno. So benissimo cosa penso di quelle azioni alla metro. Non ho pubblicato il testo di rivendicazione e questo potrebbe già far capire come la penso. Ma non farò da parafulmine parlandone in questa diretta. Mi sono rotto il cazzo di sentirmi dire: hai ragione, ma non dirle certe cose. Il silenzio però è mortale, il lasciar passare tutto senza porsi nemmeno una domanda è agghiacciante. Allora io lo ribadisco ancora una volta: 10, 100, 1000 azioni dirette contro il dominio, ma nel mio linguaggio rude mi rivolgo a Reacción Salvaje e alla cospirazione delle cellule di fuoco in Cile e vi porgo una domanda. È un detto praticamente, un detto napoletano. Non è che si sta prendendo il cazzo per la bomba atomica? Riflettiamoci un po' tutti su questa domanda. Radioazione, settembre 2014. senza post because you passed away. Radiazione 20 settembre 2014. Facciamo finta che era venerdì, che è venerdì, perché la diretta è stata posticipata ad oggi. Facciamo finta che ieri non abbiamo scoperto che la mail non era stata rubata, ma bensì i server di Autistici Inventati ci hanno avuto dei problemi e tuttora la mail è ancora bloccata. Facciamo finta di tante cose, ma non facciamo finta che le cose accadono anche dall'altro lato del mondo. Come dicevo nel testo che ho scritto proprio poco prima di andare in diretta, testo che non apparirà sul sito di Radiazione perché evitiamo di aprire polemiche inutili o scatenarsi di risposte e contro risposte. Chi ascolta Radiazione ha sentito cosa ci avevo da dire, o la domanda al limite, sì, se avrò l'indirizzo al limite, un indirizzo di manderò il testo a qualche sito di quelle parti, così la domanda arriva anche a destinazione. Allora, come dicevo, oggi 20 settembre 2014 alla diretta d'azione che praticamente comprende solo controinformazione, qualche riflessione, qualche provocazione. Quelle di prima erano sia riflessione che una provocazione. E ovviamente la musica. Dovrei darvi la mail, però per il momento non ve la do, così evitiamo che arrivano ulteriori mail alla casella di posta e io non posso leggerle, e molto probabilmente anche quelle che sono state inviate nei giorni scorsi andranno perse, andrà persa tutta la posta che c'era salvata su Radiazione, oppure quella che è arrivata negli ultimi tre giorni. Quindi la mail la diremo lunedì, sperando che la mail si sia riattivata, abbia ripreso vita. Invece il sito di Radiazione, radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast, dove potete anche scaricarvi materiale messo a disposizione dai tanti compagni in tutto il mondo gratuitamente. Ci sono CD, ci sono poster, ci sono libri, ci sono buscoli, c'è un po' di tutto. Allora, questa era la radio trasmette sul server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre. Anzi, ultimamente si è ricambiato il server, però per voi, per chi ascolta Radiazione e per chi legge, non è cambiato una sega. Veramente non è cambiato nemmeno per me, è cambiato più per il compagno, che ha dovuto rismanettare il tutto da capo. E perciò un ulteriore ringraziamento. Allora, il sito l'abbiamo dato, abbiamo dato anche il server su cui trasmette Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Rabbit Junk con il brano Beating Track, e poi dopo si torna qui e si inizia con la prima notizia di controinformazione. E questi erano Robbie Junk con il brano Beating Track. Allora, prima di passare alla prima notizia di controinformazione della giornata, volevo ricordare anche l'appuntamento per la prossima diretta d'azione, quella di lunedì dopodomani, lunedì 22, con la classica diretta del lunedì, in cui si inizierà con Nazero 13, si continuerà con il nuovo libro, il primo di quest'anno, Nessuno ci salva, di Sergiu Piasecki, libro penso che molti compagni già conosceranno, storia di ladri, un bel libro. Anche alcune dritte in alcune situazioni, dritte e dritti. I dritti erano i ladri all'epoca, le dritte sono i trucchetti per rubare. Allora, questo, tutto questo lunedì, insieme ovviamente alla controinformazione, si alterneranno sempre il racconto alla notizia di controinformazione e la musica, così non vi fate due palle così. Ora ripassiamo alla, passiamo alla controinformazione e ci ricolleghiamo subito con lo scritto che ho letto e non verrà pubblicato, cioè quello sul Cile. Sono alcuni compagni, sono arrivati alcuni testi nei giorni scorsi per quanto riguarda gli attacchi alle metropolitane in Cile. Tutti attacchi, cioè tutti testi contrari alla, all'attacco, più che altro per il luogo fisico e perché ha coinvolto i passanti e gente che stava andando a prendere la metropolitana, non ha toccato minimamente la, chi andrebbe toccato seriamente. Allora, dei vari testi che mi sono arrivati ho preferito tradurne uno solo perché lo reputo quello là un pochino più potabile, non ci sono il, come li chiamavo io nel mio testo, i cori, i ritornelli, sarà stato quello, forse sarà stato quello, gli anarchici non possono essere, e invece sono stati gli anarchici. Allora, quindi dicevo, di fondo il seguente testo scritto che praticamente parla della, dell'attacco esplosivo all'indomani dell'attacco esplosivo avvenuto alla metropolitana a Santiago e che ha provocato il ferimento di 14 persone. Il testo: siamo attacco, siamo fuoco contro lo Stato, veniamo da tutto il mondo. Veniamo dagli attacchi ai commissariati, caserme di polizie e carcerieri, ai centri di divertimento dei potenti, alle chiese e le istituzioni dello Stato capitale. Abbiamo fabbricato ordigni esplosivi, sappiamo utilizzarli e conosciamo le conseguenze al momento dell'agire. Veniamo dalla logica e le pratiche della cospirazione da anni. Ci siamo organizzati in modo informale, senza capi e rivendicando l'autonomia, forgiando le reti clandestine che la repressione non riuscirà a rilevare. Noi continuiamo perché non abbiamo mai smesso. Per quanto riguarda l'ordigno esploso nella metropolitana che ha causato diversi feriti tra i passanti, senza essere giudici esponiamo e difendiamo la nostra posizione. Nelle azioni che noi abbiamo perpetrato, nella complicità che abbiamo materializzato, negli attacchi che altri compagni hanno fatto, che non conosciamo personalmente ma con cui abbiamo condiviso anonimamente il cammino di azione diretta, è sempre stato identificato chiaramente il nemico. Nemico è chi detiene il potere o si arma in sua difesa, diventando bandiera e bersaglio degli attacchi, ma non chi approva o passivamente o soccombe al dominio. Non ci si può affidare al caso sulla possibilità che possa circolare un potente o un qualsiasi civile. I colpi dell'azione trasgressiva sono sicuri e sanno riconoscere tanto l'obiettivo quanto la struttura del potere e repressione e di soggetti che la detengono. È lo Stato e le sue politiche di terrore che considera la vita come semplici numeri nelle statistiche delle sue quote di potere e per questo avanza divorando e schiacciando impassibile, e noi prendiamo le distanze da questo nelle proiezioni e le idee, ma soprattutto nella pratica, che indubbiamente siamo diversi. Questo non deve lasciare spazio a dubbi. Desideriamo e agiamo per la distruzione e combattiamo il nemico. Ci armiamo di mezzi per raggiungere questo, usiamo e rivendichiamo l'uso della violenza per affrontare le autorità, ma i nostri colpi non tentano di causare danni a chi transita semplicemente nella città. Ciò significherebbe che qualsiasi persona, solo per il fatto che circoli, è complice e collaboratore del potere, senza avere assolutamente alcun fondamento per sostenere le motivazioni. Quelle non sono le nostre forme, né il fine né l'orizzonte del cammino dell'azione diretta che pratichiamo da anni. Così come non trascuriamo la nostra sicurezza nell'agire, imparando dalle proprie tecniche e l'avanzata del nemico, non tralasciamo al caso la sicurezza di coloro che possono aggirarsi intorno ai nostri obiettivi dell'attacco. Quindi non confondiamo e deleghiamo nel buon lavoro del nemico la salute di qualsiasi civile, tantomeno nell'evacuazione o chiusura della zona. Non siamo indifferenti al dolore o ai danni che può subire qualche passante. I cittadini non dovrebbero temere le nostre azioni, ma il terrore dovrebbe esserci per la miseria della vita imposta dallo Stato attraverso ciascuno degli ingranaggi che costituiscono la sua macchina distruttrice. Per la polizia, dal grilletto facile, il criminalizzare qualsiasi comportamento che è fuori dagli schemi fissi della loro normalità, per l'asfissia economica che porta al suicidio o per l'avanzamento del controllo sociale. Ecco chi dovrebbe temere le nostre azioni, in ogni aspetto della loro vita e la loro sicurezza, i rappresentanti del dominio. Ci stiamo avvicinando. Non scriviamo per discriminalizzare l'uso della violenza, ma per rivendicare l'uso che l'abbiamo data, rendendo chiare le nostre idee nella lotta per l'insurrezione, che non include l'attacco contro i civili. L'invito è quello di agire in complicità con gli affini, moltiplicando i gruppi di attacco, agendo per la liberazione, ma tenendo ben chiari i nostri obiettivi di propaganda e attacco al nemico. Le nostre pratiche sono parte del messaggio, i nostri colpi devono essere precisi, senza paura, senza imprecisioni. Terrorista è lo Stato, salutiamo i recenti attacchi contro chiese e stazioni di polizie, contro ogni forma di potere, per l'anarchia e la liberazione totale continuiamo a crescere. Nucleo de attaque pour la liberation, tradotto da radiazione ovviamente. Questo me lo potevo pure evitare di leggere, però oramai era andato a rota, leggevo, ho letto pure tradotto dalla reazione, sti cazzi. Qualcuno potrebbe dire sti gran cazzi, ci sta tutto. Allora, questo era il testo, che uno dei testi che mi era arrivato dal Cile e che avevo valutato più fattibile, più potabile, come ho detto prima. Gli altri erano morti sui puntini, sulle i. Io lo ribadisco, l'attacco è stato quello che è stato, non ne stiamo qui a discutere oltre, facciamoci solo delle domande, domandiamoci dove cazzo si sta andando con io penso che si sta un po' uscendo fuori dall'orbita dell'anarchismo con questi, cioè, sia con il testo delle ETS che ora si chiamano Reazione Servache, e sia con l'attacco alle metropolitane. Cioè, l'attacco metropolitana è una cosa che viene fatta di notte quando non circolano treni, è un'altra cosa che vengono fatte nell'orario in cui c'è gente che prende gli stessi treni della metropolitana. Quindi io non mi voglio dilungare, è un argomento un po' difficile da affrontare, però mi piacerebbe un attimo che un po' tutti ci si interrogasse, perché ho visto che comunque i testi sono stati pubblicati da altre parti, da altri siti, altri blog, e senza una nota introduttiva. Oramai è una prassi quella di pubblicare, copiare e incollare tutto e non dire di proprio, cioè non dire dare una propria valutazione. Io lo faccio, mi attiro le critiche, vabbè, cioè, questa è una mia scelta, però anche due righe per far capire: oh, stiamo pubblicando questo, è avvenuto un attacco alla stazione della metropolitana, è avvenuto un attacco a un pinco pallino nella piazza, ci sono stati feriti. Qualcosa bisogna dirlo, ovviamente non mettendo i puntini sulle i. Ora ci ascoltiamo un brano di Cobalt 16, il brano è Tomam, e poi dopo si torna qui e si riparte con la controinformazione. Fertile Cobalt 16 Tomam. E allora abbiamo dato, ho letto la mia, abbiamo letto quella dei compagni cileni riguardo sempre a questi attacchi avvenuti in Cile. Ora leggiamo qualcosa un pochino più, cioè sicuramente più, cioè triste, triste anche l'attacco, ma è triste specialmente quello che è avvenuto un paio di giorni fa, quando a Santiago, nel Cile, all'alba del 18 settembre 2014 ci sono state diverse incursioni della polizia come risposte agli ultimi attacchi esplosivi. L'operazione si è conclusa con l'arresto di tre compagni, almeno così sembra essere, e si aspettano conferme dai compagni cileni. I tre compagni e gli eventuali tre compagni arrestati sono Natalí Casanova Muñoz, Juan Flores Riquelme, Guillermo Durán Méndez. Per tutta la giornata di ieri la polizia ha tenuto nascosta l'identità degli arrestati. Secondo la stampa e la polizia, gli arresti sono stati effettuati grazie alle perizie sui video dell'attentato alla metropolitana dell'8 settembre. Per la stampa gli arresti sarebbero collegati ad alcuni dei recenti attacchi esplosivi, in particolare gli attacchi dell'11 agosto contro due commissariati, rivendicati dalla CIV, Cospirazione Internazionale per la Vendetta, e dalla recente rivendicazione degli attacchi alle metro Dominicos e Subcentro della cospirazione della cellula di fuoco in Cile. Natalí, Juan e Guillermo sono stati portati al 15° tribunale nel pomeriggio, dove il magistrato ha chiesto una proroga di indagini prima di formalizzare l'accusa. La legge sull'antiterrorismo in Cile permette tali proroghe. Per il momento si sa solo che i tre, difesi da avvocati di ufficio, hanno negato tutte le accuse. Ovviamente si aspettano aggiornamenti sul caso di queste tre compagni, tre persone che sono state arrestate, qualcosa di più approfondito, qualcuno che dice: oh, li conosciamo, sono compagni, sono amici nostri, fateci sapere qualcosa, siamo qua. In attesa si lascia la notizia così e poi dopo si prenderanno le valutazioni del caso. Per il momento i tre hanno anche negato tutte le accuse, quindi sì, nel momento che le rivendicheranno, Radiazione poi prenderà decisione se continuare a pubblicare cose su tale persone, tali compagni o meno, come è avvenuto tempo fa con io non li chiamo più, oramai non li chiamo più, con Nikos Matsiotis e Polarupa, che sono usciti con due testi che con l'anarchismo non c'hanno un cazzo da fare, diciamolo in parole spicciole. Quindi quando arriverà qualcosa di più concreto dal Cile si valuterà la situazione. Questa era per quanto riguarda la notizia dell'arresto dei tre ragazzi, dei compagni, ora vedremo. Invece, sempre in Cile, il 26 settembre 2014, un magistrato ha cercato di ottenere una nuova misura cautelare contro Victor Montoya. Questo è avvenuto dopo che il compagno è stato assolto dalle sue accuse antiterroriste. Oggi i giudici inizieranno un nuovo processo contro Victor, accusandolo dell'attacco esplosivo alla caserma di Vizcachas, ma i desideri degli inquisitori e dei persecutori della Procura Sud sono concentrati più su poter ottenere la detenzione di Victor, prigione preventiva, durante tutto il secondo processo fissato per il 6 ottobre 2014. L'udienza si terrà alle ore 9 nel tribunale di Puente Alto. Ricordiamo che tutte le più recenti decisioni giudiziarie sono state direttamente influenzate dal clima di terrore e di vendetta che è stato generato dopo l'attentato dell'8 settembre alla metropolitana, che ha provocato il ferimento di più di 10 persone. E questa era la seconda notizia a breve dal Cile che arrivava. C'è pure una lettera di Mario Gonzalez, è lunga, l'ho vista oggi. Nei prossimi giorni si provvederà a tradurla e a pubblicarla sul sito di Radiazione. Per ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Idoli, non dico il titolo del brano perché è in penso che è in croato, e quindi non essendoci la compagna che porta avanti il sito in croato di Radiazione, non mi permetto di pronunciarlo. La band si chiamano Idoli, sono conosciuti, una vecchia band post-punk dell'ex Jugoslavia. uzalud me budiš u pola šest. Nema nigde nikog i nemam okus, od onoga što vidim i ponestaje dah. Ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si poti. Pristajem da pogledam te prvi put, tražim zbirku povičari čilja sad. Reci mi, kenozoik mi je za tebe, reci mi. Kenozoik mi je za tebe, reci. Allora, dopo il brano degli Dolly facciamo una, un po' di sana pubblicità. No, ricordiamo un appuntamento che c'è oggi 20 settembre a Bergamo. È uscito il secondo numero del bollettino dei compagni della Croce Nera Anarchica, c'è la prima presentazione oggi. Se sono stati precisi, hanno iniziato quasi un'ora fa, ma secondo, cioè, conoscendoli, ancora stanno là in attesa di presentare. Quindi presentazione del progetto editoriale di Croce Nera Anarchica. Leggiamo le due righe che i compagni di Croce Nera hanno scritto per presentare questo nuovo numero, secondo numero, ma numero uno del bollettino di Croce Nera Anarchica. Questa nuova Croce Nera nasce con lo specifico obiettivo di diventare una palestra di idee con con minimo comune denominatore le centralità della pratica distruttiva. Non basta più usare la definizione azione diretta, visto che sembra aver acquisito il significato di tutto e il contrario di tutto. Ovviamente daremo più ampio spazio possibile al contributo dei compagni finiti nelle maglie della repressione, senza ridurci ad una sorta di croce rossa ridipinta, ma supportando in ogni modo la continuazione del loro percorso di lotta. Lo scopo del progetto, che mai dovrà assumere toni o le forme dell'assistenzialismo, è quello di rilanciare certe idee e conseguentemente certe pratiche. Questo praticamente era pure nell'editoriale del pezzo preso dall'editoriale del primo numero del bollettino di Croce Nera Anarchica. A seguire la presentazione avverrà al laboratorio anarchico La Zona, a via Bonomelli 9, alle ore 17. Chi è della zona? No, la zona, della zona il posto, il laboratorio anarchico, ma della zona Bergamo e dintorni, può recarsi e andare a... E se c'è qualche domanda da fare ai compagni di Croce Nera Anarchica, gliela faccia. Io poi gliele faccio da vicino, già gli faccio la testa così ogni tanto. C'è una collaborazione con i compagni di Croce Nera Anarchica per quanto riguarda le traduzioni che vanno sui rispettivi siti. Finalmente una collaborazione sana dopo un bel po' di tempo in cui... diciamo che i traduttori non ce n'erano tanti in giro, quindi ora con i compagni di Croce Nera si collabora sulle traduzioni da pubblicare. Questa era per quando a seguire, dopo la presentazione ci sarà una cena vegan, presentazione del progetto Protestango da Buenos Aires, uno spettacolo musicale, bla bla bla bla bla bla bla. Quello che dovevo dire l'ho detto. Allora, questo era per quanto riguarda la presentazione di stasera di Croce Nera Anarchica. Invece dal Cile, sempre dal Cile, sembra dal Cile, oramai se rimaniamo in Cile, Istinto Selvaje, il sito dei compagni cileni, ha fatto un manifesto in solidarietà con Tamara Sol. Il manifesto lo potete scaricare dal sito di Radiazione in varie lingue. Trovate il link per ogni lingua che desiderate. Allora, leggiamo il manifesto, cosa dice. Non sono una sognatrice che parla delle sue visioni, ma una sperimentatrice che si addentra nelle sue visioni ed è pronta a rischiare la propria vita per esse. Feral Faun, buon anno. Poi c'è scritto libertà per Tamara Sol Farias Vergara, compagna anarchica arrestata il 21 gennaio 2014. Comunque, chi non ci ha capito un cazzo si può andare a scaricare il manifesto dal sito di Radiazione, dove trovate l'articolo Istinto Selvaje, manifesto per Tamara Sol. Lo aprite l'articolo e sotto ci sono i link. Allora, prima leggiamo anche il testo che accompagna il manifesto da parte dei compagni di Istinto Selvaje. Di fronte al silenzio complice, un grido di solidarietà. A poche settimane dalla chiamata in solidarietà con i prigionieri anarchici, che tra virgolette io non ho evitato di diffondere, e poi dopo parliamo il perché, abbiamo voluto scrivere alcune parole per la nostra compagna Tamara Sol Farias Toledo Vergara. Sono già trascorsi più di 7 mesi da quando si è stata arrestata con l'accusa di rapina e tentato omicidio, e possiamo solo dire che per noi, che crediamo nell'anarchia qui ed ora, sarai sempre presente in ogni gesto e azione anti-autoritaria che faremo contro questa società. Come anarchici ci riconosciamo nell'illegalità, visto che la nostra esistenza li disturba, e nel tuo caso in particolare non riconosciamo i margini delle leggi. Se una sentenza ti dichiarerebbe colpevole o non colpevole, questo non cambierebbe nulla nel riconoscerci come nemici di qualsiasi società, capitale e di tutte le forme di autorità e di dominio. Sei una compagna che è in carcere, e questo è sufficiente per mostrarti solidarietà in questo momento e non essere partecipi del silenzio che porta all'oblio. Alla faccia dei compagni italiani, questa ultima frase io l'avrei aggiunto. Il silenzio è complice inseparabile con la delazione e l'omicidio di ciascuno dei nostri compagni in prigione o in un'azione. Perciò noi non vogliamo essere partecipi di esso, e ancor meno quando uno dei nostri compagni è in carcere, e a prescindere dal fatto che sono anarchici, anti-autoritari o nichilisti o non siano a nostri affini. Abbiamo voluto in questo momento fare questo manifesto senza il tuo volto, e anche se è apparso nei media che che anche se apparso nei media e dei nostri nemici e la tua immagine è su internet, non saremo partecipi né nel tuo caso né in quello di altri compagni che non lo abbiano scelto. Ringraziamo tutti i compagni che ci hanno aiutato nel fare questo manifesto e la sua traduzione in diverse lingue. Ci auguriamo che questo manifesto appaia nelle città e venga diffuso nei diversi spazi e progetti di controinformazione. Radioazione l'ha pubblicato. Presenti. Radioazione presenti, istinto selvaggio, diffondiamo l'anarchia selvaggia. Come dicevo prima, sotto l'articolo ci sono le varie lingue, cliccate sulla lingua che volete e vi scaricate il manifesto. Non ho letto la nota di radiazione come introduzione, aspettavo di leggere prima il testo dei compagni. All'inizio del testo ho messo una breve nota su una cosa che io già avevo in mente da un po' di tempo a questa parte, e che poi leggendo le parole dei compagni di Stinto Selvaggio mi ha dato mi ha fatto avere un po' più chiara la situazione e dire sì, vai, partiamo in questo modo e facciamo la proposta anche agli altri. Quindi, approfittando del seguente scritto che arriva dai compagni di Stinto Selvaggio, faccio una proposta a tutti gli altri progetti di controinformazione, sia web che cartacei. Purtroppo io in primis, e lo dico io in primis, da qualche anno a questa parte abbiamo pubblicato foto dei compagni detenuti nelle nostre pagine, ripeto, web e carta. Questo ovviamente da parte di nessuno di noi è mai stato fatto con le stesse intenzioni dei media. Però ora vorrei proporre, unendomi alle ultime parole dello scritto dei compagni di Stinto Selvaggio, di non pubblicare più foto dei compagni detenuti se questi non lo abbiano espresso volontariamente. Se abbiamo sbagliato in passato, non significa che continuare a sbagliare per sempre. Quindi, io la proposta l'ho lanciata. Radiazione da oggi in poi non pubblicherà mai più le foto dei compagni detenuti, a meno che i compagni detenuti non inviano le foto per farle postare, tipo Gabriel Pombo da Silva. Il compagno Gabriel Pombo da Silva ha inviato la foto per, non a Radiazione, però a altri compagni che poi me l'hanno passata per farla pubblicare, perché ovviamente si veniva pubblicata sempre quella foto da giovane, e lui ha detto ora sono così. E quindi Gabriel è un conto, lui l'ha scelto, è una cosa. Sappiamo che in Grecia è una pratica comune da anni, questo di pubblicare i manifesti con i visi dei compagni, i volti dei compagni. Automaticamente chi ora è in galera lo ha fatto in passato per altri compagni, e quindi in quel caso comunque c'è anche una sorta di accondiscendenza sul pubblicare le foto. Però a prescindere dal tutto, comunque io almeno io su Radiazione eviterò da ora in poi di mettere foto di compagni detenuti. Poi ognuno faccia il suo. Ora ci ascoltiamo un brano di Cop Shop Cop, il brano è If Tomorrow Ever Comes, e poi dopo si ritorna qui e controinformazione ancora. Straight with all our friends, and I'm still waiting. Cop Shock Cop, il If Tomorrow Ever Comes. E questo era il brano che ci ha fatto un attimo prendere un po' di respiro a voi di non sentire la mia voce del cazzo per tanto tempo. Invece ora ve la dovete pompare per un po' di tempo, perché abbiamo aperto con il mio scritto orale, la mia non mi viene termine come l'ha definita una compagna, i miei sfoghi orali. Allora, dicevo, nel mio scritto, in quello che ho letto all'inizio, che non verrà pubblicato su Radiazione, sul sito di Radiazione, si parlava sia dell'attacco alla metropolitana che il testo delle ITS di Reazione Selvage, che purtroppo, cioè non è che purtroppo, ho deciso di non pubblicare né la rivendicazione di uno né il testo dell'altro. Però, visto che c'è disponibile il testo dei compagni messicani, io lo leggerei, anche per rispetto. Ho fatto una critica. Ora, chi non capisce, chi ascolta la reazione, può essere pure che c'è qualcuno che ascolta la reazione e non ha letto il testo dei compagni di Reazione Selvage, io lo leggerò, lo leggeremo in due parti, perché sono quattro pagine e quindi lo spezzettiamo con un brano musicale. Allora, primo comunicato, Cuernavaca, Morelos, 14 agosto 2014. Le persone che propugnano tutta questa spazzatura di sviluppo e progresso tecnologico dovrebbero essere severamente punite. F. Puntato. Dopo poco più di 3 anni di attività criminale e terroristica, il gruppo di individualità intendente a Selvaggio, ITS, inizia una nuova fase in questa guerra aperta contro il sistema tecno-industriale che andiamo a spiegare. Prima di tutto vogliamo spiegare che durante tutto il 2013 e 2014 vari gruppi di terroristi e sabotatori si unirono al gruppo ITS, così che ora, dopo un lungo silenzio per ragioni puramente strategiche, rivendichiamo pubblicamente. Il gruppo informale anticivilizzazione, che il 29 giugno 2011 si assunse la responsabilità dell'esplosione che danneggiò gravemente una filiale della Santander Bank nella città di Tultitlan in Messico, pardon per i nomi, però gli autonomi non civilizzati che il 16 ottobre del 2011 fecero esplodere una bomba presso un bancomat della Banamex tra le città di Tultitlan, prima o poi riesco a dire, e Coacalco in Messico. Il circolo informale delle individualità è antagonista, c'è poco da ridere, però vabbè, prendiamolo alla leggera, già iniziato male, gruppi di terroristi e roba varia. Allora, circolo informale delle individualità antagoniste che nel settembre 2009 liberarono molti cavalli selvatici da una fattoria ad Aguascalientes. I selvaggi indomabili che il 16 ottobre 2011 lasciarono una bombola di gas butano che non esplose in una filiale della Santander Bank nel distretto di Alvaro Obregón in Mexico City. L'azione non è mai stata rivendicata sino ad ora. Le cellule terroristiche per l'attacco diretto, frazione anticivilizzatrice, che nel 2010 e nel 2011 lasciarono una finta bomba davanti alla IFAB, ricerca farmaceutica e biofarmaceutica, e fecero poi esplodere una bomba fuori dall'edificio dell'Istituto Nazionale di Ecologia, entrambi nel distretto di Tlalpan a Mexico City, la città del Messico, vabbè, diciamo la città del Messico. I luddisti contro la domesticazione della natura selvaggia, che dal 2009 al 2011 hanno preso parte a vari attacchi incendiari in alcune città messicane ed in vari distretti di città del Messico, rivendicati e non. NS, Fera, Kamala e Yamala, che il 9 dicembre 2011 spedì un pacco esplosivo al direttore dell'Istituto Nazionale di Psichiatria Ramon de la Fuente nel distretto di Tlalpan in città del Messico, che venne disinnescato dagli artificieri della polizia. Il 15 dello stesso mese lo stesso gruppo avvisò tramite un'email della presenza di un'autobomba nel parcheggio della medesima istituzione, che benché fosse un falso allarme diffuse panico tra gli ufficiali di quel centro di alienazione mentale. Left Liberation Front Bakio, che il 16 novembre 2011 provocò un'esplosione vicino al bancomat di un ramo della Commissione Federale per l'Elettricità, CFE, nella città di Irapuato e in Guanajuato, una cosa del genere, poco leggete. Allo stesso modo, durante quest'anno 2014, altri due gruppi terroristici che hanno preso di mira lo sviluppo del sistema tecno-industriale si sono uniti a noi. Ci riferiamo a il circolo di attacco Punta d'Ossidiana, che alla fine di marzo di quest'anno inviò un pacco bomba via posta espresso al rettore dell'UNAM in Città del Messico. Il gruppo Atlatl, che nell'aprile di quest'anno ha rivendicato la responsabilità degli allarmi bomba e dei messaggi intimidatori all'indirizzo delle istituzioni accademiche a Michoacán, Città del Messico, Puebla, Zacatecas, non lo so, Messico, c'è scritto Messico, forse sarà scappato un errore di traduzione. Tutti questi gruppi si sono fusi con i gruppi ITS di Morelos, Messico, Città del Messico, Guanajuato, come cazzo si chiama lui, Hidalgo, e altre, Veracruz è un'altra città che è ancora più difficile da pronunciare. A causa di questa unione, lo stravagante e poco pratico pseudonimo di individualità tendente a selvaggio, ITS, cessa di esistere e da ora in poi gli attacchi contro tecnologia e civilizzazione saranno firmati con il nome nuovo Reazione Selvaggia, RS, lo diciamo in italiano così si capisce meglio, o meno lo pronuncio pure io meglio. RS prenderà l'iniziativa dell'attacco e degli obiettivi umani come era ITS, ma colpirà anche le proprietà pubbliche e private. I centri di ricerca verranno bruciati insieme ai loro scienziati, le aziende che promuovono l'artificialità ed i loro impiegati verranno attaccati. Insomma, tutto ciò che implica la civilizzazione, la tecnologia e il progresso sarà violentemente attaccato. E se per tale ragione durante gli attacchi qualche cittadino rimarrà ferito o ucciso, non ci interessa se saremo indifferenti e indiscriminati. Questa è la frase per cui ho deciso di non pubblicare lo scritto. La popolazione, le masse, la gente, la comunità, il gregge, la società non meritano la nostra considerazione, né i nostri avvertimenti, né i nostri moniti a fare attenzione, né niente in assoluto, perché fanno tutti parte del sistema. Che sia chiaro, se incroceranno il nostro cammino, se ne pentiranno, e lo abbiamo già dimostrato in passato come ITS. Poi c'è una citazione: tutto ciò che sia basato sulle masse, sul gregge di pecore, porta in sé il seme della servitù. Questa folla che non autodetermina i propri valori è incapace di definire la propria vita. Ha puntato. Terzo punto. I gruppi che formano RS avranno i propri nomi, questo per una decisione interna al gruppo. Questi gruppi agiranno in autonomia, saranno in grado di effettuare atti di sabotaggio e atti terroristici, se vorranno, quando vorranno, rompendo la formalità dell'attacco e degli appuntamenti predeterminati dal gruppo. Questo vuol dire che in qualunque luogo e in qualunque momento sarà presente la latente minaccia dell'aggressione. Punto 4. Neghiamo di essere seguaci di Ted Kaczynski. Abbiamo effettivamente imparato molte cose dalla lettura della società industriale e il suo futuro, dai testi successivi e dalle lettere che lo hanno preceduto a firma Freedom Club FC. Ma questo non significa che siamo suoi seguaci, infatti la nostra posizione cozza con quella di Kaczynski, dell'FC, del suo discepolo Ultimo Reducto e di altri, dal momento che noi non ci consideriamo rivoluzionari, non vogliamo formare un movimento antitecnologia che incoraggi il totale abbattimento del sistema. Non lo riteniamo attuabile, non vogliamo la vittoria, non fingiamo di vincere o perdere. Questa è una lotta individuale contro la mega macchina. Non ci interessa ottenere qualcosa di positivo da essa, dal momento che siamo semplicemente guidati dai nostri istinti di difesa e sopravvivenza. Siamo per il rifiuto dell'artificialità e della realtà moderna. Neghiamo i valori del sistema, quali l'eguaglianza, la solidarietà promiscua, la pace, il progresso, la pluralità, l'umanismo, eccetera, eccetera. Difendiamo la nostra identità di umani moderni, aggrappati alle nostre radici primitive. Accantoniamo le nostre etichette come anticivilizzazione, primitivisti, anarchici, antitecnologia, luddisti, perché RS è un'attitudine unica che non ha bisogno di queste stanche e contorte etichette per definirci. Per cui né Kaczynski, né Ultimo Reducto, né Zerzan, né Derrick Jensen, né altri con il presunto marchio di primitivista rappresenta RS. Né ci rappresentano la Federazione Anarchica Informale, FAI, la cospirazione delle cellule di fuoco CCF, Feral Faun o altri con il marchio di eco anarchico o di cellula anticivilizzazione di puntini puntini puntini. RS ed i suoi gruppi rappresentano se stessi. Questo era la prima parte, le prime due pagine del totale delirio. Io lo chiamo delirio, me ne frega un cazzo. Chiamiamo le cose per quelle che sono, e questo è un delirio. Fino a, per ora le prime due pagine sono un delirio che si smentisce, parla di anticivilizzazione, ma sa che la... poi dopo 5 righe fa il discorso diverso, poi l'attacco ai cittadini e poi altre 3.000 cazzate. Ecco perché praticamente questo è solo le prime due pagine. Ora ci ascoltiamo un brano, io mi faccio un sorso d'acqua perché, cioè, già di solito leggendo cose più interessanti mi viene, perdo la voce, mi si secca la gola. Ora mi si sono seccate pure le palle. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Fatal Morgano e il brano è Laugh Blood, e poi dopo si ritorna qui con le ultime due pagine del delirio delle RS. System of democracy. next country to give fascism a chance. Fatal Morgana con il brano Lifeblood. Allora riprendiamo la seconda parte del delirio delle RS. Non nascondo che ora lo leggo e lo leggerò per la prima volta anche io, perché sono arrivato al punto dove ci siamo lasciati prima del brano e poi ho deciso di non andare più avanti perché mi stava, cioè, ci voleva non la scatolina di Malox, ma ci voleva la bottiglia da 3 litri minimo. Quindi ho deciso di finire di leggerlo e ora lo leggiamo, lo leggo proprio perché ho fatto una critica all'inizio, allora voglio far capire perché quella critica, e mi chiedo, faccio pure una domanda, ma una volta che questa gente qua non vuole essere più definita anarchica, che cazzo ci fanno i loro comunicati sui siti anarchici? Boh, apro e chiudo parentesi. Continuiamo con il delirio. Altra citazione: questo è un modo di esprimere il nostro ego, un ego che vuole differenziarsi da gregge di schiavi, un ego che non china la testa, un ego che non aspetta che le masse si ribellino, un ego che rivendica il proprio nome, il proprio acronimo e che non si nasconde dietro l'anonimato. C puntato, non è contro info che aveva... Ho detto il nome, no? Allora, capitolo quinto. Precedentemente alcuni, ma non tutti, dei gruppi che si sono uniti come RS erano formati esclusivamente da eco-anarchici e da ecologisti radicali. Ora RS è formato da nichilisti, sabotatori, nomadi, incendiari, delinquenti, individualisti, anarchici terroristi, critici moralmente e politicamente scorretti. Ovvero, RS è un gruppo di affinità che sono pronte a fare tutto ciò che è necessario per raggiungere ciò che vogliamo. E ciò che vogliamo è la destabilizzazione del sistema, la punizione diretta di coloro che sono immediatamente responsabili dell'assoggettamento della natura selvaggia, inclusa la natura umana. Siamo un considerevole gruppo di individui selvatici consapevoli che i nostri antenati erano guerrieri che rivendicano se stessi allo stesso modo. Siamo la minoranza della minoranza. Abbiamo deciso di intraprendere una guerra contro tutto ciò che sta cancellando la nostra essenza di umani naturali e ci sta plagiando per trasformarci in umanoidi umiliati. Questa esistenza a cui ci aggrappiamo ci è stata trasmessa dai nostri antenati selvaggi. Ci spinge a seguire il sentiero del conflitto e della resistenza contro l'alienazione, contro ciò che ci vuole addomesticare e tenerci alienati dalla nostra vera casa. Le foreste, i deserti, le colline, le montagne, le giungle, le coste. Il sistema tecno-industriale e la sua avanzata incontrastata ci hanno sottratto il modo di vivere libero che i nostri avi conoscevano. La civilizzazione con la sua agricoltura e il suo sedentarismo hanno ricoperto l'ambiente di grigio e ci hanno sottratto la memoria. La modernità ha assordito i nostri istinti e sensi primitivi. Gli animali che cacciavano sono morti per la moderna peste tecnologica. I posti dove vagavano e riposavano sono stati distrutti dalle infrastrutture e dalla sovrappopolazione. Il progresso ci ha affondati nell'ignoranza. La sapienza naturale è andata persa col passare delle generazioni. giorno dopo giorno ci avviciniamo all'estinzione. Siamo sull'orlo del baratro dal momento che non intendiamo adattarci al sistema o alla sua arrendevole società, né ai suoi valori morali. Ma ci siamo destati. Quell'essenza primitiva continua con noi, non è addomesticata e ha disagio nelle città e ci sussurra costantemente. Non appartenete a questo posto, distruggete la vostra gabbia. Ecco perché durante questi anni abbiamo intensificato il controllo contro l'artificialità. Ecco perché abbiamo bruciato macchinari, causato esplosioni, creato terrore, ferito persone, bucato teste, proprio come gli antichi facevano nelle guerre contro la civilizzazione, in difesa del loro modo di vivere. Quel modo di vivere esiste ancora, nonostante esso possa essere ridotto a minimi termini, e lo difenderemo fino alla fine. Per coloro che credono che la guerra contro la civiltà terminò con lo sterminio dei gruppi etnici, dei nomadi raccoglitori e cacciatori delle popolazioni originali di queste terre nella guerra dei selvaggi, non lo so come si legge, dopo oltre 400 anni, permetteteci di dirvi che vi sbagliavate. Siamo l'eredità dei guerrieri. Coloro che sostengono questo sporco sistema non vivranno in pace. Reazione selvaggia, reazione selvaghe, RS, gruppo uccidere o morire. Gruppuscolo, matar o morire. Note, poi ci sono note. Per evitare che la nostra attitudine venga confusa, cambiata, falsificata o alterata per le citazioni riportate nei nostri comunicati, abbiamo deciso di mettere alla fine di ognuna di esse la prima lettera del nome dell'autore. Se riconosci i loro lavori, sappi che includiamo tali frasi perché siamo d'accordo solo con esse, non con il loro pensiero o la loro opinione in toto. Poi ci sono altre note che è inutile andare a leggere ora dopo quattro pagine. Comunque il comunicato per intero lo potete trovare sul sito dei compagni di Croce Nera Anarchica, andate là, c'è, non mi ricordo come si chiama, come ha per titolo, però comunque vedete Messico, ITS, RS, una sigla del genere. Andatevelo a leggere e ci sono le varie note con i vari riferimenti, se ci tenete proprio tanto. Questo era per quanto riguarda il delirio che arriva dal Messico. Fortunatamente dal Messico non arriva solo il delirio, si spera che prima o poi si riesca ad avere questo compagno che ci possa parlare della situazione in Messico. Se sta ascoltando, l'invito è a venire a Radiazione anche lunedì, giorno di lettura, però possiamo rintagliare un po' di spazio per parlare un po' della situazione in Messico. Quindi se si riesce a fare, almeno ne capiremo un pochino di più rispetto a quel paese, rispetto al movimento anarchico di quel paese. Ora ci ascoltiamo un brano, lei è Anin Elias, la cantante praticamente dei Atari Teenage Riot, un progetto a sé, il brano è The Dice, e poi dopo ancora controinformazione. Hanin Elias, o Elias, non lo so, lei è tedesca. Il brano era The Dice, e ora si passa a qualcosa sicuramente molto più serio rispetto all'ultimo che abbiamo letto, per cui ho perso anche la voce a furia di leggere 4 pagine di minchiate. Allora, questa è l'ultima notizia che leggiamo, eppure questa la divideremo in due parti, perché è un testo scritto da un compagno detenuto in Grecia, Dimitris Politis, che ci fa conoscere meglio la sezione disciplinare del carcere di Korydallos. Allora, verso la metà di luglio sono stato trasferito nell'ospedale statale di Nichea per alcuni esami medici. Data la natura di questi esami e per la presenza della polizia durante la procedura richiesta dal medico in persona, ho rifiutato la visita medica e sono tornato in carcere. Il 6 agosto sono stato chiamato al concilio disciplinare con l'accusa di disobbedienza, perché ho rifiutato di eseguire il comando della scorta di polizia. Entrando nell'ufficio del direttore del carcere con intenzione di dire alla PM che non ho nulla da dichiarare e poi andarmene, mi sono seduto di fronte a lei, la quale si è rivolta a me dicendomi di alzarmi. Non ho prestato attenzione a queste sue parole e mentre le dicevo di parlare seriamente, mi ha ripetuto nuovamente con un sorriso arrogante di alzarmi. Allora ho accartocciato il pezzo di carta su cui erano scritte le accuse e l'ho buttato in faccia a lei. Era ovvio che mi ritrovavo di fronte ad un'altra persona arrogante e illusa, convinta di possedere il mondo. Avevo dinanzi a me un'altra pedina spendibile e insignificante, illusa che tutti i detenuti le sono inferiori. Quindi, per ristabilire il suo ego ferito, mi ha punito con 5 giorni di misure restrittive nella sezione speciale. A parte la tipica disputa tra un anarchico e un PM, il cui curriculum vitae sicuramente contiene episodi e storie molto più triste e cruenti che rimangano nell'ombra, dovevo focalizzarmi su ciò che veramente significano le sezioni speciali. La sua insanità e la sua vendetta l'hanno portata per la prima volta nelle sezioni disciplinari per assicurarsi che il suo comando è stato eseguito. Comunque non ha prestato molta attenzione a ciò che è questo luogo dove invia così tante persone realmente. Ovvio, il suo tempo è troppo prezioso per curarsi del fatto che 20-25 persone vivono in celle di 2 metri per 2. In uno stretto corridoio 25x0,5, mentre in alcune celle 4 persone vivono con 2 materassi per terra e letteralmente senza spazio per poggiare i piedi. Ovvio il fatto che in queste celle c'è solo un doppio letto a castello e un bagno con lo sciacquone improvvisato senza porta o almeno un tramezzo, non è importante. Ovvio il fatto che tutta l'area è immersa nella sporcizia e nel fedore, ormai impossibile rimuovere, non è importante. Immondizia ovunque, scarafaggi, topi e germi compongono una vera bomba sanitaria. Ovvio, il fatto che i detenuti costantemente chiedono materiale vermicida e per le pulizie per poter mantenere loro stessi le celle pulite, dato che a differenza delle altre sezioni gli addetti alle pulizie qua non arrivano e le autorità carcerarie non soddisfano mai le loro richieste, non è importante. Ovvio, il fatto che le cose ordinate dei detenuti arrivano una volta ogni tanto, non è importante. Ovvio, il fatto che il cortile, un buco di cemento di 5 metri per 5, recintato con filo spinato, non è mai accessibile ai detenuti, non è importante. Ovvio, il fatto che c'è solo una doccia per tutti i detenuti, dalla quale esci più sporco di prima, un solo antiquato e lercio distributore dell'acqua e solo 2 telefoni a pagamento, di cui solo uno funzionante, non è importante. Ovvio, il fatto che c'è una malandata multipresa e delle malandate prese ideali per l'elettrocuzione, e in alcune celle come la mia, al posto della presa si trovano 2 nudi cavi elettrici che porta i detenuti a realizzare cose improvvisate, non è importante. uno dei miei compagni di cella, senza capire cosa stesse facendo e cercando di aiutarmi, tagliava i cavi con un coltello di plastico finché non l'ho fermato io. Ovvio, il fatto che le sezioni speciali sono state chiuse dopo l'ispezione sanitaria e sono state riaperte dopo una superficiale pitturata dei muri non è importante. Ovvio, queste cose non sono importanti, dato che le serrature e le telecamere, uniche cose qua considerate importanti, sono anche le uniche cose che funzionano a dovere in questo deposito di anime. E questa era la prima parte del scritto di Dimitris. Ora ci ascoltiamo un brano giusto per spezzare e poi si ritorna con la seconda e ultima metà del testo del compagno Greco, e con i saluti e l'appuntamento per lunedì. Allora, questi erano Yonf con il brano Trams 2. Ora sicuramente l'ho detto una mezza ciofeca. se c'era Marcello lo leggeva meglio, visto che legge mai il tedesco. Allora, stavamo leggendo il testo di Dimitris Politis, il compagno greco, che ci faceva uno, ci mostrava in questo specchio la sezione speciale del carcere di Korydallos. Allora, andiamo avanti con la seconda ultima parte dello scritto. E anche adesso sento che questa descrizione non è neanche lontanamente vicina all'esperienza vissuta dai residenti permanenti nelle sezioni speciali. Vivere in queste sezioni ti fa sentire la nostalgia per la miseria delle sezioni normali. Conti giorni come se qualcosa di buono sta per accaderti, mentre stai semplicemente per tornare nella tua cella. Questo conferma l'assioma di base del carcere, che le cose possono sempre andare peggio. Naturalmente solo a Vittoria Marzioni, il PM coinvolta nell'incidente, e al resto del personale carcerario sembra logico non perdere tempo a guardare tutto questo, dato che loro questo lo conoscono già. Le cose sono così perché sono loro che le vogliono. La loro intenzione è la punizione severa, una pesante sconfitta per l'insubordinato. Per questo arrivano alla conclusione che in carcere o fai il compromesso o non sopravvivi. Lasciando da parte quelli con le sanzioni disciplinare, la versione ufficiale dell'istituzione carceraria è che i detenuti vivono là per scelta, per essere protetti, anche se molti di loro smentiscono questa affermazione. Una persona è stata dimenticata là per 2 mesi e chiedeva di andarsene, ma veniva ignorata dai funzionari perché non avevano tempo per esaminare la questione, e molte di queste persone sono tornate nelle sezioni normali, il che dimostra che sono stati messi nelle sezioni disciplinare a causa della mancanza di spazio. Ma anche se questo fosse vero, perché allora non mettono a posto questi spazi, il costo economico sarebbe molto basso, dato che i detenuti farebbero tutto il lavoro, allo stesso modo in cui i detenuti mantengono e gestiscono tutto il carcere, fino al punto, tra gli altri lavori pagati, di occuparsi del giardinaggio, della pulizia, degli uffici, dei funzionari e persino della riparazione delle sbarre, del filo spinato e dei riflettori. Loro semplicemente non hanno motivo di farlo, dato che i psicofarmaci legali e le droghe eseguono perfettamente il loro compito. Ogni mattina, mezzogiorno e notte, ognuno si mette in fila e uno ad uno prendono le loro pasticche nei loro bicchieri. Profitto e obbedienza, 2 piccioni con una fava. Dato che non si può vivere così senza la droga che aiuta a dimenticare, il tempo si ferma, gli stimoli sono eliminati, il cervello si blocca e la necessità di vita cede al posto ad un istinto di misera sopravvivenza. Ogni giorno uguale, sonno, cibo, farmaci, ripetere, inerzia e letargo, condannati ad un tormento perpetuo che matematicamente conduce alla distruzione dell'individuo. Non è una coincidenza che ogni persona incontrata nella sezione disciplinare ha da tempo oltrepassato il punto di non ritorno. Il carcere annichilisce le persone e poi le mantiene apatiche nel loro stesso mondo, gettando briciole, sguardo vuoto, movimenti rallentati, assenza di dignità, giudizio sradicato. In breve, Marzioni, che ripeto è la PM, tornerà a casa sua dopo aver finito il proprio lavoro, e naturalmente tutti quelli che sono responsabili per l'esistenza di questi cerchi infernali sono assassini occulti, persone codarde, meschine e immorali, che con le proprie azioni confermano il fatto che il mondo sarebbe un luogo migliore senza di loro. Concludendo con uno sguardo a futuro, molti PM che si sentono piccoli dei molto presto incroceranno il nostro cammino. Il trasporto delle persone e la loro detenzione nelle carceri di tipo C dipenderà unicamente dalla decisione di una singola persona, abituata ad avere potere totale nel carcere, impartire ordini senza chiedere niente a nessuno, detenere un'onnipotenza relativa fin dove interessa il contesto istituzionale. Per gli anarchici in particolare, il dilemma che l'autorità gli metterà di fronte, giudicando dalle azioni delle sue marionette, sarà chiaro: capitolazione o annientamento. E come ad ogni altro dilemma proposto dall'autorità, noi non rispondiamo, noi lo superiamo combattendo con tutti i mezzi ad ogni costo. Dimitris Politis, carceri di Corrida Los, sezione D. Ecco, questo testo del compagno Politis si conclude oggi la diretta d'azione, quella che doveva andare in onda ieri ed è stata posticipata ad oggi. Ricordo che per ora ai compagni che di solito inviano materiale a redazione di non mandare nulla, perché la mail ci sono dei problemi sui server per quanto riguarda la posta elettronica di Autistici Inventati, e quindi non inviate niente perché non arriva nulla. Appena la posta sarà, la mail sarà ripristinata, sarà pubblicato un post sul sito di radiazione. Ricordo anche l'appuntamento per lunedì prossimo, dopo domani praticamente, lunedì 22, con la diretta d'azione che comprende controinformazione ovviamente, una 013 all'inizio, che prima o poi riusciremo a far uscire, benefit per i detenuti, eccetto le spese, questo lo tengo, perché sarà un progetto un pochino più costoso rispetto al CD uscito l'anno scorso. Questo comprende un CD, un racconto, quello che sto leggendo da un anno a questa parte su Radiazione lunedì, nella prima, già proprio all'inizio della diretta d'azione. È praticamente un CD allegato con le musiche inerenti al racconto. Tutto insieme andranno benefit ai compagni detenuti, tolti le spese. Invece per il libro, quest'anno abbiamo iniziato con un libro di un autore che già avevamo letto l'anno scorso, lo stesso autore di L'amante dell'orsa maggiore, e cioè Sergiu Piasecki. Il libro che stiamo leggendo, che abbiamo iniziato lunedì scorso, è Nessuno ci salva. Molti compagni già lo conoscono. Storia di ladri, di dritti e di merli. Quindi, a chi è interessata anche la lettura, ricordo che sulla redazione non vengono letti i testi, libri di testo anarchico. Sarebbe troppo pesante. Si cerca sempre di si è cercata sta formula in cui ci sono tematiche affini, ci sono delle dritte, come poi chi seguirà la lettura di Nessuno ci salva potrà riscontrare, e non il classico tesanatico, conosciamo tutti, due palle così. Allora, appuntamento a lunedì alle ore 17. Per oggi è tutto, Radiazione, diretta d'azione. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.